Allora, adesso passo la parola a Federico Bonelli, regista del film, artista, e vai. Allora, io userò, proverò ad usare il microfono, eccolo qua, perché c'è, perché non usarlo, e così la registrazione della mia voce viene meglio, però ho registrato anche io, non mi preoccupate. Allora, io mi chiamo Federico Bonelli, insieme a Cristina abbiamo preparato questo film di cui non vi parlerò perché prima si vede, tanto se no ve lo facevo a fare il film, invece così si può vedere e poi dopo mi dite voi se, se volete dopo, mi pagate davvero oppure no. Però siccome sono stato introdotto anche come filosofo, che purtroppo è anche questo uno dei, dei miei difetti, mi sono scritto un lunghissimo discorso, tre pagine, per parlare dell'arte. Perché così vi volevo torturare un po', durerà più o meno 3 minuti, forse 10, ma insomma. Se non ce la fate più, fate questo gesto, io smetto. Okay. Allora, cosa serve l'arte? Che risponde in questo caso è perduto, perché l'arte non serve, perché non è serva, è un elemento di libertà. Si fa arte, si accede all'arte che si ha dentro perché si vuole essere libero, quindi non serve l'arte. Ma dove sta scritto che tutto debba servire? È un'idea un po' antica. L'arte è una misura di libertà. Io credo che sia il modo anche, il modo di affrontare ciò che è difficile, che ci migliora, che ci fa imparare a sentire delle cose, sia anche il modo di cogliere e di esprimere un qualcosa di indefinibile che è la qualità, anche, ne parla anche il Presidente della Repubblica persino, della qualità. Sarebbe meglio chiederci a noi stessi da dove viene o dove va questo agire con l'arte. E quindi mi chiedo e vi chiedo, cosa usiamo per decidere dove andare, per parlare del futuro, per immaginare? E anche per parlare di noi stessi. Usiamo la scienza, la conoscenza, l'emozione. Lasciamo qui questa domanda e veniamo a Pietra Ligure, e questo piccolo discorso d'arte di cui sono molto fiero e che sono fiero e contento di condividere con voi questa sera, la mia piccola arte. È costruito anche questo, il cinema, diciamo, chiamo cinema con la C minuscola, però consentitemelo, è costruito da un coacervo di persone, non si può fare da soli. In questo caso lo vedrete, è l'effetto deve moltissimo sia alla musica che alle persone incontrate, che ai posti, che ai paesaggi, che al bosco. Tra l'altro il cortometraggio si chiama Il bosco al mare, che è un bel titolo, che non è solo mio. Noi siamo partiti da uno spazio vuoto, che è il caso dei cantieri Rodriguez, e da un sogno che mi ha raccontato Cristina un giorno, mi ha raccontato questo sogno in cui, sentendo i rumori, mi immaginavo mentre me lo raccontava proprio, gli uccellini, il camminare sugli aghi di pino, eccetera, questo bosco finiva sul mare di Pietralino. E poi ovviamente avevamo avuto l'esperienza di vedere e di parlare degli ex cantieri Rodriguez. Siccome con il progetto Rosso 9 si pensava di portare degli artisti nel vedere i vostri posti e con l'idea di non usare il territorio, quello era uno dei posti che avevamo visto. Ma torno a quello che ho scritto, se non divago. Dunque, Pietra Ligure, pensavo proprio a questa cosa, la pietra e la Liguria, che, scusatemi, ma scherzano soprattutto le mie amiche, tipico del Ligure ed essere come la pietra, cioè un po' duro, un po' arcigno, soprattutto arcigno, indomito, asciutto. Ma pensavo anche che per noi persone fluide c'è l'idea della goccia, la goccia che scava la pietra. E quindi mi sono lanciato con il sogno di Cristina anche a questa immagine di questa goccia che piano piano scava, e quale sia la goccia nell'uomo, nello spirito dell'uomo, perché ho notato che le pietre in questa zona vengono usate spesso proprio per fare il cemento, vengono bruciate per fare il cemento da tanti anni, e intere colline sono oramai dei buchi di fuoco che non c'è più, e questa immagine mi colpiva e pensavo di trovare un modo di metterla nel film. La questione del fuoco è interessante perché il principio del secolo XIX e del secolo XX è stato il fuoco, Polemos di Eraclito. C'è una bella differenza tra il fuoco che usiamo per scaldarci e il fuoco che ti brucia la casa. Questa era un'altra delle immagini che mi tenevo bene a mente mentre cercavo di tradurre il sogno di Cristina in qualcosa di visuale, di visivo. Sicuramente c'era anche bisogno del corpo, di qualcuno che si muovesse in questi posti vuoti, e quello sono estremamente felice di aver incontrato la danzatrice che vedrete nel film. Ecco, qui mi sono scritto: Federico parla del futuro. A questo punto, però, vedendo le vostre facce, voglio essere sintetico. Quindi voglio solo dire che il futuro non è qualcosa, secondo me, che bisogna necessariamente capire. Il futuro si costruisce insieme, succede, ma è guidato da qualcosa, va guidato da qualcosa che può essere se è solo sentimento è rischiosissimo, perché se uno si basa soltanto sul cuore per fare le scelte rischia di trovarsi nei grossi guai, no? Ma se non c'è anche l'elemento più vicino alla terra, più vicino all'inconscio, più vicino a quello che ci accomuna tutti, diventa un qualcosa di molto sfuggevole, che scivola via. Allora c'è il sogno, c'è il bosco al mare, c'è il futuro, c'è il come parlare del futuro, su cui per me, secondo me, l'arte, il punto di vista dell'arte, non l'arte con la maiuscola dei giornali, ma l'arte vicina a tutti noi, quell'anelito a migliorarci che abbiamo, è importantissimo. E allora, qui mi sono puntato un'altra cosa molto importante, perché nel parlare del bosco al mare, del progetto, molto spesso ci siamo detti sì, però è possibile. Non succederà mai che avrete il bosco di nuovo al mare, qui bisogna fare i soldi. E chi paga? Chi paga i vostri sogni? Chi paga le vostre chiacchiere? Perché giustamente il Ligure è una persona pietrosa, concreta. Guardate male, eh? Vabbè, spero di riuscire a uscire di lì. Quindi, è una cosa che sento dire spesso, come se il denaro in realtà fosse qualcosa di concreto, ma non lo è, una storia che ci raccontiamo come tante altre. La finanza lo fabbrica dal nulla, il denaro, non esiste un solo denaro che esiste, esistono almeno due, quello dei tantissimi zeri della finanza e quello che ci studiamo con il sudore della fronte, non sono lo stesso. Bisogna fare attenzione a questo. E inoltre, in questo caso specifico che abbiamo studiato e rappresentato nel film, c'è una pratica di fare i conti con la concretezza nelle proprie tasche. Cioè, non si fanno molto spesso i conti nelle tasche di tutti, della collettività, ma si tende a fare i conti con le proprie tasche. In questo caso, sul caso che mi è capitato di toccare con il cantiere Rodriguez, è ovvio che le tasche non siano qui. Le tasche che fanno i conti sul cantiere Rodriguez, per me, è ovvio che non sono le tasche vostre. E quindi, vabbè, vorrei concludere con quest'altra cosa che devo a Cristina, quest'altra annotazione che devo a lei, perché nel parlare di bosco al mare spesso ci è stato detto che stavamo scavando nell'utopia. Allora, utopia viene da up, particella privativa, e toposto, il luogo che non esiste. Ma io non sapevo che invece è un termine che viene introdotto da Thomas More per non usare il termine eutopia, che era il termine giusto usato dai greci. L'eutopia è il posto buono, il posto dove si vive bene. Nel dire che questo posto non esiste, Thomas More fa un'operazione precisa, cioè nega se stesso, nega di dire che è possibile un posto buono, ma secondo me non stanno così le cose. E sarebbe bello ricominciare a parlare di utopia e magari lavorarci verso. Quindi vabbè, ho finito le mie 18 pagine di appunti. Io spero, e sono anzi molto certo, amando questo posto visceralmente per il tempo che ci ho passato e con l'aiuto di molti dei presenti per apprenderlo, per conoscerlo bene, è un gran bel posto. Io sono sicuro che tornerete a parlare di utopia molto presto. Quindi vi lascio con il film, se lo riesco a far partire, che parla di sogno, di arte, di utopia, e si chiama Il Bosco al Mare, e spero che parta bene. Vediamo un po'.